1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, anzi quasi 19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi e per voi. Vi ricordo che oggi approfondiremo anche questa storia del bonus di 80 euro per le neomamme. Avremo ospite Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Avremo ospite anche Gustavo Piga, economista. E poi parleremo con Francesco Storace, che oggi si presenta in tribunale perché rischia per l'accusa di vilipendio alle istituzioni per una vecchio articolo nei confronti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rischia la condanna appunto. E oggi c'è il processo, sempre che non venga rinviato. Francesco Storace sarà nostro ospite alle 8:45. Ora andiamo però a sfogliare i quotidiani. Questo martedì 21 ottobre i titoli, il Sole 24 Ore apre così, è detto che non esistono aperture molto comuni, ogni giornale fa una scelta propria. Il Sole, per l'appunto, sulle aliquote fiscali aumenti retroattivi, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera, così come Repubblica e il Manifesto, l'apertura è sul Movimento 5 Stelle. I nodi Grillo su migranti e ribelli, così il Corriere della Sera. Per Repubblica, espulsi ribelli, rivolta tra i 5 Stelle. E Renzi, PD aperto a tutti, è scontro. Il Manifesto, razza grillina. La Stampa invece, Renzi sì al dissenso, ma il PD non è un club di anarchici. Per il Giornale, un dovere difendere i cristiani, il Papa lancia la crociata contro l'ISIS ed è anche l'apertura di Avvenire, cristiani necessari al Medio Oriente, il Papa intervenga la comunità internazionale. Il Messaggero, taglia Unione Europea, manovra a ostacoli, mentre il Fatto Quotidiano, Renzi vuole il regime ma si scorda la manovra. L'apertura di Libero invece è l'apertura anche della lettura dei nostri giornali. Libero, vi spiego come vivere e andare in pensione senza mai lavorare. Io quando ho letto questo titolo, in realtà è un'intervista che è uscita sulla Nuova Sardegna, che oggi sia Libero riprende e mette addirittura in prima pagina, sia La Stampa dedica mezza pagina a questa vicenda, la storia di Carlo Cani, raccontata appunto dal quotidiano La Nuova Sardegna. Carlo Cani chi è? Carlo Cani è un minatore sardo, che ha raggiunto i due suoi obiettivi, lavorare pochissimi giorni in miniera e ottenere comunque la pensione. Lui dice, io rispetto i minatori, ma a me piace suonare il jazz. E quindi che cosa ha fatto? Ha fatto una vita che per sua stessa ammissione, con malattie, certificati, scuse, finti malori, ed è riuscito a lavorare, tra virgolette, come minatore per 30 anni e poi ottenere la pensione. Maurizio Belpietro, direttore di Libero, racconta questa intervista iniziando così: non sono stato leghista neppure quando era di moda esserlo, ma dopo aver letto l'intervista che pubblichiamo all'interno penso che lo diventerò. Mentre procedevo nella lettura del colloquio tra il giornalista della Nuova Sardegna Mauro Lissia e il minatore sardo in pensione Carlo Cani, la mia indignazione e la mia rabbia si gonfiavano come mongolfiere. Ed eccola qui allora, stralci dell'intervista riportata a pagina 2. Carlo Cani, in arte Charlie Dogs, perché ha lobby del jazz. Io in pensione senza avere mai lavorato. Ti aspetti, incontrando un minatore del Sulcis, un uomo stanco, è difficile la vita del minatore, fatica, sudore, nelle gallerie sotterranee, polvere che ti fodera la pelle, ti toglie il respiro, il pericolo sempre dietro l'angolo. Invece eccolo qui, nel 2006 sono andato in pensione con 35 anni di anzianità, ma praticamente non ho mai lavorato. Mai. E lui conferma, quasi mai, là sotto stavo troppo male, sin dall'inizio io e il carbone non abbiamo legato, e allora andavo dai medici, ride, chiedevo cure, capivano, mi accontentavano, fino alla cassa integrazione, 1993, una liberazione, poi la mobilità e addio. 26 anni di servizio alla Carbo Sulcis, 26 anni trascorsi tra malattie di ogni tipo, cassa integrazione, mobilità, alla fine il diritto alla pensione con lo scivolo lungo, quello che matura chi ha svolto sino in fondo un lavoro considerato usurante. Marcava visita, diventa ospite fisso degli ambulatori medici, mi inventavo di tutto, amnesie, dolori, emorroidi, camminavo sbandando come fossi ubriaco, o forse a pensarci bene qualche volta lo ero davvero. Mi capitava di urtare la parete con un pollice, impossibile lavorare con un pollice gonfio. Altre volte mi finiva la polvere in un occhio, avevo sempre un occhio pieno di polvere e ride. In questa intervista, racconta la Nuova Sardegna, continua a ridere. Qualche volta mi ha messo lì, una volta dovevo sorvegliare un rubinetto dicendo attenzione, stai attento se, perché da qui si regola il livello dell'acqua. Mi addormento e mi sveglio con lo scroscio dell'acqua che aveva invaso tutto. Eccolo qui, la storia di Carlo Cani, anche con una bella foto in prima pagina di Libero. Anche La Stampa dedica mezza pagina allo strano caso del pensionato che non ha mai lavorato, grazie alla cassa integrazione ha maturato l'assegno INPS. Sui social ovviamente è bersagliato di insulti, scrive La Stampa, ora non risponde neanche più al telefono. Ma dai, rideva pensando di far vedere ecco come si diventa più furbi degli altri. Vabbè, chissà se ridevano anche mentre si compravano a spese nostre, questa è l'accusa del Jeep, navigatori per macchina, champagne, spumanti, cene, oltre ai vecchi campanacci per mucche, le celeberrime mutande verdi, stiamo parlando delle richieste di rinvio a giudizio per il vicepresidente della regione Piemonte e anche per un assessore, il vicepresidente Aldo Reschigna, l'assessore Monica Cerutti. In regione Piemonte, 10 a giudizio, c'è anche il vice di Camparino, come racconta Marco Imarisio a pagina 21 del Corriere della Sera, la performance della consigliera PD Angela Motta, anch'essa destinata all'imputazione coatta. Qui tenete le mani strette sul volante, Questo è il premio, lo sapete, le mani strettissime sul volante, anche perché si sono comprati un navigatore per macchina, quindi è ovvio la mano è stretta sul volante. Angela Motta aumenta di intensità le spese in vista del Natale. Se per quello del 2011 il peccato sembra un peccato leggero, acquisto di spumante e champagne per €112,96, l'anno seguente si passa ai €3,237 destinati a cesti natalizi e regali. Sul suo tabellino risulta anche la stranezza di una spesa di ristorazione per €1,326 destinata a 51 persone. Ha scritto il GUP nella richiesta di rinvio a giudizio: mangiare è un bisogno personale, non un'esigenza della politica. Tra l'altro, Monica Cerutti di SEL, rinviata a giudizio, è scoppiata a piangere ieri in consiglio regionale. Pagina 13 di Repubblica, viene intervistata da Sara Strippoli, il paragone con un'altra donna piemontese e le sue lacrime, Elsa Fornero. Lei risponde, l'assessore Cerutti: mi pare una situazione molto diversa, le mie lacrime non erano per altri ma per me, ho pianto per tensione e dispiacere, ho fatto di tutto per cercare di controllarmi ma non ce l'ho fatta. E poi guarda, si difende così: guardi, il mio era un monogruppo, ero l'unica consigliera di SEL nella passata legislatura. Il monogruppo, queste sono le pazzie delle regioni, i gruppi di una persona. A meno che mi si consideri Wonder Woman, credo si possa immaginare che per fare l'attività avessi bisogno di aiuto, dipendenti e collaboratori. Vabbè, il mio era un monogruppo, ho provato a trattenere le lacrime ma ero troppo tesa e dispiaciuta. Per la verità, La Stampa racconta con Marco Zatterin una storia da Bruxelles che riguarda anche il Movimento 5 Stelle, il benefit segreto dei grillini, questo è il titolo. Strasburgo, macchina con autista, pagina 11 della Stampa. Racconta questo meccanismo per cui ogni eurodeputato percepisce €304 al giorno per sessione. una diaria per la sessione mensile che si svolge a Strasburgo. È una somma complessiva che comprende vitto e alloggio. Se si prende una camera tra le delizie della Petite France, anima del capoluogo alsaziano, si arriva senza batter ciglio a 200 euro. Ma il trucco è questo. Basta andare fuori porta, il conto scende anche sotto i 100 euro. Quindi si spendono magari 100 euro e soprattutto poi che si fa? Si usa la macchina di servizio per andare appunto all'Europarlamento. Metti 10 euro per la notte, cioè 100 euro per la notte, un pranzo alla mensa del Parlamento 10-15 euro, una cena sul fiume da 25-50 euro, insomma si arriva sui 170 euro e più o meno la metà, poco meno della metà, di 304 euro, uno cosa fa? Se li intasca. Perché 304 euro è la diaria, basta risparmiare qua e là, se si dorme lontano dal centro si spende meno e via, il resto si tiene. E soprattutto, scrive Marco Zatterin, gli eurodeputati hanno casa in periferia ma poi si muovono con l'auto di servizio. Succede ovunque, succede anche in Giappone, come racconta Manila Alfano a pagina 14 del giornale. Ma lì che succede? Si fanno scuse pubbliche, di quelle in cui ci si inchina, magari si fa anche un seppuku, no, non è, no, ci si ferma lì, ci si fa una scusa molto molto sentita e la carriera finisce. Succede a un ministro accusato di avere sperperato 70.000 euro in 10 anni in cosmetici e ventagli. Si tratta della ministra Yuko Obuchi, promessa della politica giapponese, accusata di aver speso più di 10 milioni di yen, cioè 74.000 euro in creme di bellezza. Si è presentata davanti alla stampa, livida, composta, si è piegata, prostrandosi dicendo: offro le mie più sincere scuse per non essere in grado di contribuire alla ripresa economica e alla realizzazione di una società in cui le donne brillano. Scossa? Scossa è ovviamente per la vergogna, la sua carriera politica è finita. Oh, il pubblico! Ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Alessandro Milan e Lenzi Bogard per informazione. Bogard. Humphrey, ma va bene, insomma. Che onore, cara ascoltatrice, grazie. Grazie. Allora, veniamo alla questione della manovra, che è sempre molto sotto osservazione. Oggi il Sole 24 Ore racconta gli ultimi ritocchi, soprattutto quello che c'è in prima pagina e poi a pagina 2 dettagli con Marco Mobile e Marco Rogari. E vale a dire questo: un lungo lavoro di cesellatura con diverse limature l'articolato alcuni dettagli contabili. Per esempio, spunta, ed è il titolo sull'IVA, una clausola da 988 milioni. Cioè, cosa succede? Tra le novità dell'ultima ora sembra essere spuntata una clausola di salvaguardia ad hoc sotto forma di eventuali aumenti di accise sui carburanti per 988 milioni a decorrere dal 2015 per blindare, in caso di mancato ok dell'Unione Europea, il meccanismo rafforzato di reverse charge e di split payment collegato all'IVA. E dunque questa è la questione. Un'altra questione su cui si lavora molto è il bonus bebè. Ovviamente dopo l'annuncio di Matteo Renzi, qualcuno dice che si è dovuta riscrivere la manovra nel pomeriggio perché non era prevista, poi non si era capito perché Renzi diceva per i 30.000 euro, poi ha detto no, per chi guadagna, si è capito, per chi guadagna sotto i 90.000 euro ci sarà questo bonus bebè. Insomma, Un po' di riscritture in virtù di tutto quello che è successo anche da Barbara D'Urso, tanto che racconta il Fatto Quotidiano Il Quirinale viene definito irritato, questo è il titolo a pagina 3, manovra ancora fantasma, ora il Quirinale è irritato. Padoan aveva promesso pronta lunedì mattina, mentre il Colle l'aspettavano per le 18, ma non si è vista, forse proprio per la riscrittura della questione legata ai bonus per le neomamme. Infatti il Secolo XIX scrive proprio così a pagina 3, la manovra va riscritta, il tesoro spiazzato. Tetto di reddito fino a 90.000 euro. Racconta Michele Lombardi, saranno poco meno di 1.000 euro l'anno fino a due figli perché ha un reddito familiare fino a 90.000 euro lordi l'anno, ma il tetto sale oltre i 90.000 euro dal terzo figlio in poi. Insomma, è diventato un giallo il bonus per le neomamme previsto dalla legge di stabilità a partire dal prossimo anno, annunciato in TV da Matteo Renzi. Applaude a questa iniziativa il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che fa un editoriale oggi sulla prima pagina di Avvenire. Il titolo è Benvenuti figli nostri. In realtà mette insieme sia i figli che nascono, sia i figli che arrivano, i migranti. Per ora, per la verità, ha speso più idee che soldi, precisa Tarquinio. 80 euro al mese per 3 anni a ogni nuovo nato, circa 500 milioni di euro in tutto per il 2015. Una legge che finalmente riconosca italiani, bambini e i giovani che regolarmente vivono qui e studiano. Comunque si deve partire da loro, dalle risorse umane, dicono odiosamente quelli del nuovo lessico dell'azienda mondo, dalle persone, diciamo noi che amiamo stare coi piedi sulla terra e sappiamo che il cielo non è vuoto. Si deve cioè partire dai nostri figli. Dai figli che mettiamo al mondo noi altri, che in questo paese siamo di casa per antica eredità di sangue, cioè per lunga convivenza, e dai figli che abbiamo avuto dal mondo che ci è venuto in casa, figli per cultura, dono di padri e madri che lavorano con noi e frutto della nostra scuola vituperata e preziosa. Benvenuti figli nostri è il titolo dell'editoriale di Marco Tarquinio in prima pagina d'Avvenire. Certo, questa è la manovra con tutti i dubbi, ma che fa l'Unione Europea? Questo è il dubbio. L'esame dell'Unione Europea, come racconta Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore, si va verso una mediazione, secondo quanto scrive Repubblica. La questione è sempre questa: verrà bocciata dall'Unione Europea la nostra manovra oppure no? Secondo quanto scrive Repubblica, Barroso insiste, l'Italia deve tagliare altri 8 miliardi. Sapete che Barroso fa parte dell'ala un po' dei falchi in questo momento, il presidente della Commissione uscente, mentre Juncker pare tra i più soft. La doppia partita in commissione anche per il Corriere della Sera, l'uscente Barroso chiederebbe che cosa, racconta Luigi Offed, una correzione dello 0,5% nel 2015 sul deficit strutturale, riduzione dello 0,5%, che farebbe certamente un po' saltare il discorso della flessibilità. Non c'è da sperare in molta flessibilità, la trattativa però è probabilmente all'inizio, fa sapere il Corriere della Sera. Effettivamente c'è questa partita anche europea, chi la vincerà, se Barroso o Juncker, bisognerà vedere. Certo, la protagonista della politica attualmente in questi giorni è lei, Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, che ha fatto il colpaccio di avere Matteo Renzi, che ha detto questa storia del bonus per le neomamme. Barbara D'Urso, che quindi non si sottrae alla classica intervista, sia il giornale sia la stampa la intervista. Sul giornale, intervistata da Maurizio Caverzan, racconta Barbara D'Urso che Renzi gliel'aveva anticipato il giorno prima, me l'aveva promesso che avrebbe annunciato gli 80 euro al bebè e ha mantenuto. E poi vabbè, c'è la solita accusa, insomma, poteva farle qualche domanda un po' più così, un po' più ficcante, un po' più, ma io ho cercato di far parlare la pancia del paese attraverso la mia pancia, diciamo che ho comunque studiato, l'ho incalzato sulla data certa per la legge sulle unioni civili, gli ho chiesto di rispettare i tempi. Vabbè, questo sul giornale, mentre Mattia Feltri sulla stampa la intervista e lei dice: ma Matteo è uguale a Berlusconi, è un pareggio tra lui e Berlusconi. Comunque, intervista accomodante, io sono felicissima, sono volutamente accomodante perché desidero che i miei ospiti stiano comodi. E poi il Pulitzer non lo vincono neanche quelli che ci aspirano. non mi sembra di vedere in giro molti Pulitzer. Così Barbara D'Urso, che alla stampa confessa: ora vorrei intervistare Giorgio Napolitano. Hai capito, caro Mauro Meazza, non vedo Pulitzer in giro. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Beh, su questo naturalmente non possiamo dire nulla. Devo parlare alla pancia del paese? Sì, parliamo un po' alla pancia del paese. Guarda, intanto vorrei dirti che ci sono degli ulteriori sviluppi sul contratto dei bancari, come sai, diciamo congelato fino a fine anno, ma le parti stanno studiando una possibile mediazione. Ne parliamo oggi nelle pagine di Impresa e Territori, prima che tu mi sbagli il riferimento, te lo voglio dire. Invece nelle pagine di Norme e Tributi ti vorrei segnalare che oltre 6.000 comuni hanno annunciato richieste di modifiche, deliberato richieste di modifiche per l'IMU. Tu ti eri scordata l'IMU. Ma l'IMU è sempre tra noi, l'IMU non ci ha ancora lasciati, poi non so se adesso verrà annunciato qualcos'altro in televisione, però ti posso dire che l'IMU, in più di 6.000 comuni, bisognerà controllare che non sia cambiato nulla quando a dicembre ci sarà la seconda rata, non sulle prime case come ricorderai, a meno che quelli come te che abitano nei castelli e cose di lusso, eccetera. Vabbè, le mie 7 case. Esatto, e allora lì anche sulla prima, perché è di lusso, e anche le altre 6 naturalmente ci paghi l'IMU, caro mio. Che ti volevo dire? Ecco, che sulla legge di stabilità, che si vede e non si vede, noi comunque cerchiamo di capirci un po' oggi ancora sul Sole 24 Ore, c'è questa ipotesi di aumento automatico dell'IVA, non so se hai già sentito questa cosa. Poi so che invece qui a Radio 24 se ne parlerà, si parlerà di bonus bebè, degli altri bonus, insomma, ma a cuore denari mi pare, non ne parli tu questa volta, giusto? Ne parlo anch'io un po', parliamo di manovra e poi a cuore denari, certo, con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone in prima fila. Allora saremo tutti collegati per ascoltarle. Tutti convocati anche. Tutti convocati. Vabbè, abbiamo fatto un po' di palinsesto, così tanto a novembre parte il palinsesto nuovo. Ti voglio dire, per agganciarmi alla parola magica, che oggi con il Sole 24 Ore 30 pagine di rapporto motori, le novità di fine 2014 per le auto e anche qualche anticipazione su quello che ci sarà all'EICMA delle due ruote, delle moto e del motociclo. E perché te lo dico adesso, caro Alessandro? Per poter dire quella parola lì. Traffico! Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Grande, grazie, caro ascoltatore. Vi risparmio per le vostre coronarie, per il vostro bene, ma ve lo segnalo, se volete leggere sui giornali tutto il dibattito sulle novità per la legge elettorale. Vi cito solo un titolo di Repubblica, ieri c'è stata la direzione del PD, hanno parlato di creare il partito nazione, di includere e vedere magari quelli che sono un po' di Scelta Civica e di SEL e magari anche del Movimento 5 Stelle un po' delusi, di includere all'interno del PD in modo da puntare addirittura alle future elezioni al 50% più uno dei voti, insomma ottenere una maggioranza e quindi modificare la legge elettorale. Così, ecco, vi cito il titolo di Repubblica: Italicum addio, arriva il Renzellum, premio alla lista e bipartitismo. Voi capite che, ma solo per gli addetti ai mestieri e per quelli veramente interessati a queste dinamiche della politica, ve li segnalo. Comunque articoli ovunque, legge elettorale, show TV, così Renzi sogna il super PD anche su Libero, oppure se volete con Maria Teresa Meli a pagina 3, il nuovo scarto del Premier per arrivare al bipartitismo, tutte tecniche di legge elettorale, se le volete le trovate in abbondanza sui giornali, se non le leggerete io vi comprendo benissimo, state sereni e tranquilli. C'è invece la questione del Movimento 5 Stelle e l'espulsione per esempio di quelli che hanno fatto Occupy Palco, io non sapevo manco cosa fosse, ma comunque 4 attivisti del Movimento 5 Stelle che hanno occupato il palco, ha sentenziato Beppe Grillo, comunque ha sentenziato un post sul blog di Beppe Grillo in maniera errata, sono stati espulsi. Occupai palco addio, Movimento 5 Stelle, ora si cacciano anche i volontari. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 9. Espulsi dal movimento quattro militanti, protagonisti di un'irruzione al Circo Massimo, avevano chiesto più trasparenti, sono stati fatti più trasparenza, sono stati fatti fuori con un post scriptum sul blog. E ovviamente questo aumenta così i mal di pancia all'interno del Movimento 5 Stelle. Viene intervistato per esempio su Repubblica Marco Fabbri. Chi è Marco Fabbri? È il sindaco di Comacchio, eletto per il Movimento 5 Stelle, ma anche lui espulso per avere partecipato alle elezioni provinciali di Ferrara. Sono un po' triste, dice a Repubblica. Quei ragazzi hanno fatto solo tre domande. Chi c'è nello staff? Perché il sindaco di Parma Pizzarotti è stato tenuto lontano dal palco? Si possono ancora cambiare le cose del movimento? Espellerli è stato un atto gratuito e immotivato. Mi ha sorpreso perché quello non doveva essere un palco con una comunicazione unidirezionale. Pare addirittura, racconta sempre Repubblica, che Pizzarotti abbia detto a qualche suo collaboratore ma che è? Abbiamo introdotto il reato di opinione all'interno del Movimento 5 Stelle? Tra l'altro Beppe Grillo ha conquistato la prima pagina dei giornali perché ha anche fatto un post contro i clandestini, i migranti clandestini. I clandestini devono essere identificati, i profughi accolti, gli altri, i clandestini appunto, rispediti da dove venivano. Così scrive Grillo su un post. E ancora, chi entra in Italia ora deve essere sottoposto a visita medica obbligatoria all'ingresso per tutelare la sua salute e quella degli italiani che dovessero venirne a contatto. Ecco, anche così si guadagna qualche titolo di giornale, il Corriere della Sera, pagina 10, Grillo, i clandestini vanno rispediti a casa, che mi sembra una cosa di normale buon senso che avviene in tutti i paesi del mondo, se uno entra violando le leggi dell'immigrazione di un paese, ma solo in Italia fa notizia dire che chi viola le leggi di immigrazione di un paese deve rispettare le suddette leggi. Comunque, questo per quel che riguarda Grillo. Intanto c'è un dibattito lanciato dal Papa e che viene raccolto in prima pagina da Avvenire, vale a dire la necessità di intervenire con la comunità internazionale per difendere i cristiani in Medio Oriente. Vi segnalo un'interessante intervista che a pagina 3 del giornale c'è al vicario apostolico di Aleppo, dunque in Siria, George Abu Kazen, che dice: ad Aleppo soffriamo le conseguenze della guerra, se l'ISIS vince la Siria diventerà Kabul. Siete stati accusati di eccessive simpatie per il regime di Bashar Assad, ma noi non stiamo con nessun regime, risponde il vicario apostolico di Aleppo, ma stiamo con l'ordine. Se il regime viene rimosso, chi prende il potere al suo posto? Cosa è successo in Iraq? Cosa è successo in Libia? Cosa sarebbe successo in Egitto se non fosse intervenuto l'esercito? E soprattutto questa frase del vicario apostolico che dice: voi in Occidente, in Italia, vi preoccupate molto per gli orsi e le specie in via di estinzione, ma non fate niente per evitare lo sterminio di queste comunità. Ecco, andrebbe scolpita questa frase: vi occupate troppo di orsi, massimo rispetto per gli orsi, e non dello sterminio delle persone. Va bene, siamo al momento conclusivo, stiamo volando di tempo, avremo ospite Storace alle 8.45, oggi rischia la condanna per vilipendio al capo dello Stato e ci sono due pagine sia sul Corriere sul Giornale per Storace, ma il momento Carla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, vince il giornale Nino Materi, un'intera pagina sulla bufera su Suor Cristina, che è devota alla Madonna, ma la Madonna quella del rock, perché ha cantato Like a Virgin. Ma chi se ne frega!